Radio Grad, la radio libera e resistente. Buongiorno a tutti, sono Maurizio Rovini di Valdera Avvelenata e invito tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione regionale che si svolgerà il 26 ottobre 2024 a Pontedera alle 15.30. Noi non ci stiamo. La Valdera sta diventando la parte migliore della Toscana. È già la parte migliore della Toscana. Il 50% dei rifiuti della Toscana finisce in Valdera, che è solo il 5% del territorio regionale. Ci sono ben tre grandi discariche, come quella di Cello, Pontedera, quella di Peccioli e quella di Rosignano, ma che insiste sulla zona della Valdera. Non ci sono solo questi problemi, c'è progetti di ossicombustore, la riapertura di una discarica di amianto, ci sono progetti di cementificazione con nuove piattaforme per la logistica, ma soprattutto la nuova base militare che porterà un impianto logistico a Pontedera per le esercitazioni militari. Questo ampliamento delle discariche poi già esistenti, come quelle di Legoli di Pontedera, sono ingiustificate. Inceneritori, gassificatori, ossicombustori, tutto si aggiunge al disastro del Cheu. Il Cheu è quel fanghi che sono stati usati per costruire una strada nell'Empolese, ma sono stati gettati in almeno 13 siti, quelli che conosciamo, ma altri altrettanti 60 siti di cui non conosciamo l'esatta ubicazione in tutta la Toscana, soprattutto in Valdera, nella provincia di Pisa e oltre. Poi c'è ancora grossi problemi per quanto riguarda altre devastazioni ambientali che vorremmo che in questa manifestazione venissero fuori, come quella distruttiva, il grande disastro ecologico europeo che è la devastazione delle Alpi Apuane, oppure la distruzione dell'ecosistema metropolitano per far posto all'allargamento dell'aeroporto di Peretola, oppure ancora di più la devastazione che riguarda aspetti democratici, finanziari, e quindi con la creazione della Multi Utility Toscana si chiuderebbe il cerchio per la privatizzazione dell'acqua, gas e energia in Toscana. Su tutte queste basi noi non ci stiamo, chiediamo l'aiuto a tutti i comitati e tutti i cittadini organizzati che vogliano partecipare e manifestare con i loro contenuti anche alla manifestazione che si svolgerà a Pontedera il 26 ottobre. Noi siamo partiti con le associazioni No Valdera Avvelenata, TAT Montefoscoli, che combatte da decenni contro la discarica di Peccioli, Zero Waste Italy per la rifiuti zero e quindi la chiusura di inceneritori e discariche, l'assemblea permanente Nokeu, che è partita dall'inchiesta sull'uso del Cheu per la strada Empolese Poggibonsi, e il movimento Nobase, che sottolinea il fatto che anche la militarizzazione vuol dire anche cementificazione, ma anche uso del territorio per scopi militari e non certo per la salute dei cittadini. Ci sono state tantissime adesioni finora di Legambiente Valdera, dell'Associazione La Rossa, Medicina Democratica, Forum Toscano, Mamme No Inceneritore di Firenze, Alterpiana di Firenze, Prato Pistoia, Presidi, Circoli Arci, Associazione Ambiente Futuro per Rifiuti di Zero di Lucca e Cerca dei Rifiuti di Zero di Capanne, ma tante altre adesioni stanno arrivando. Questo in manifestazione vuole essere anche una dimostrazione che aver abolito la programmazione in questa regione non ha portato dei grandi risultati dal punto di vista ambientale e di democrazia. La programmazione è scomparsa, viene demandata all'impiantistica, a coloro che hanno gli impianti privati o pubblici, ma i cittadini vengono esclusi dalla regolazione di queste cose e degli interessi collettivi. Quindi la manifestazione vuole essere anche il campo, lo spazio in cui i cittadini possono riprendersi il loro potere e la loro democrazia. Quindi invitiamo tutti coloro che hanno a cuore non solo l'ambiente, ma anche la democrazia di questa regione, di partecipare. Siamo ormai agli ultimi ritocchi, il 26 di ottobre a Pontedera alle 15:30. Never not. Every job they offer used to keep you up the dock. Career opportunity, the one that never not. Radio Grad, la radio libera e resistente.